sulla testa. Gigi D'Agostino. We'll be right back. 7662. Oh, sintonizzati su una radio che ti porta lontano dalla radio, ti porta fuori dalla radio. Cose che non si possono toccare, ti sa raccontare quelle cose che la vita non ti lascia neanche sfiorare. E poi

www.gigidagostino.com. e al riposo. Non fare lo scontroso. programmino è a riposo. Non fare lo scontroso. If you want. La creazione sembra nascere dall'imperfezione, sembra venire fuori da uno sforzo e dalla frustrazione. Ed è così che secondo me è nato il linguaggio, cioè è derivato da un forte desiderio di trascendere il nostro isolamento per comunicare in qualche modo gli uni con gli altri. E probabilmente è stato facile, è stata una semplice questione di sopravvivenza. Per dire acqua abbiamo prodotto questo suono e c'è una tigre dietro di te e abbiamo prodotto un altro suono. Ma quello che è davvero interessante, secondo me, è il fatto che noi usiamo lo stesso identico sistema di simboli per comunicare tutti i fenomeni astratti e intangibili che si presentano nella nostra vita. Come si esprime la frustrazione? O come si esprime la rabbia o l'amore? 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Scegli un altro numero. 6. Ok. Il sogno è il destino. Good night, baby, good night. When tomorrow comes, I reborn. Looking in your eyes, baby, good night. Sleeping tight alone, you'll wake up feeling warm. Baby, good night. When tomorrow comes, I reborn. Looking in your eyes. Alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8, gute Nacht. 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, alte Keks, 7, 8. Del mio vascello, eh? Sai che tiene benissimo il mare e da qui puoi spaziare con lo sguardo. Io credo che il veicolo debba essere un'estensione della personalità. Voilà! E questa è la mia piccola finestra sul mondo, ogni istante uno spettacolo diverso. We'll be right back.

serve uno strappo, io ti porto verso l'orizzonte. I'm losing.

Pubblicità. Taradatata. Il programmino è a riposo. Non fare lo scontroso. Il rumore del cammino. Fantastico cammino del programmino. È il rumore del silenzio. È sempre più forte.